Sì, direi abbandonato e in qualche modo ripensato. Ecco, la cosa, questo per me, ecco, che mi ha colpito di più è il fatto che a me l'avevano raccontato in un altro modo. Questo è il... cioè che noi siamo arrivati sul fiume sapendo che facevamo una passeggiata per bambini, avremmo senz'altro scoperto delle cose che si stavano perdendo ma che in realtà si stanno rivalorizzando, che non è vero, ecco, un po', ma che è giusto che non sia vero, perché questa realtà che abbiamo trovato rispecchia di più la realtà che c'è altrove, no? Non è che uno dice il Po è un'isola felice, però è un peccato vedere come un fiume venga un fiume, un territorio, una tradizione vengano abbandonati, e poi ci sono delle cose spaventose da vedere. Allora, noi abbiamo finito il nostro viaggio a Isola Serafini e l'abbiamo finito perché volevamo finirlo lì. Allora, Isola Serafini è un isolotto che c'è sul Po tra Cremona e Piacenza. Allora, quest'isolotto, a monte di quest'isolotto c'è l'unico sbarramento idroelettrico che c'è sul fiume Po. Allora, mentre tutti i grandi fiumi europei sono stati in passato bacinizzati, come si dice, cioè sono state messe delle dighe che formavano dei bacini e queste dighe permettevano sia la produzione di energia elettrica sia lo stoccaggio dell'acqua per l'agricoltura, sul Po non è stato fatto questo intervento se non in un punto solo del Po, a Isola Serafini. E io mi sono sempre chiesto, sapendolo, cioè io mi seguo le questioni del fiume da sempre, da che ho iniziato, ho sempre avuto questo legame profondo con questo territorio, non ho mai capito perché lì avessero fatto una diga che impedisce la risalita del pesce, che impedisce la risalita delle barche, perché un'altra grande bugia universale è quella che il Po è navigabile dal Delta Torino. Non è vero, è un'immensa stronzata. Il Po è navigabile dal Delta fino a Isola Serafini, poi quando voi arrivate lì o avete 300 euro per pagare uno che vi fa l'alaggio della barca e ve la porta dall'altra parte, oppure voi non salite perché c'è una conca che però è stata progettata male e quindi l'ingresso della conca è 7 metri sopra il livello del Po, cioè voi arrivate contro un muro e o aspettate che il Po vada in piena e quindi si alzi di 7 metri, oppure voi non passerete mai attraverso questa conca. Il conchista viene e vi dice: ma cosa avete, una canoa? Vi aiuto a spalla. Avete una barca più grossa? Questo è il numero di telefono di quello che a Cremona, dove voi tornerete, vi fa l'alaggio, vi mette sopra il carrello e vi porta la barca sopra. Va bene. Questo sbarramento insormontabile dai pesci e dagli uomini, io ho capito a un certo punto a che cosa doveva servire nella storia di questo paese quando sono riuscito ad andare a farci un giro dentro in barca, perché improvvisamente tu vedi questo unico bacino lacuale sul Po, vedi l'acqua che si ferma, che rallenta, vedi la diga che blocca tutto, ti giri e vedi la centrale nucleare di Caorso. E allora capisci, anche ricostruendo i tempi di costruzione di queste cose, che quella diga non serviva a produrre energia elettrica, perché una su un fiume di 600 volte chilometri è una stupidaggine, ma serviva a frenare l'acqua in caso fosse successo non si sa cosa alla centrale nucleare di Caorso. E questa è una cosa che qualunque persona con qualunque livello di cultura, con qualunque idea abbia rispetto al nucleare, quando si trova lì in mezzo a questo lago e vede la diga da una parte e la centrale dall'altra, capisce benissimo perché è stata costruita. Credo che sia istruttivo viaggiare lungo il fiume passando da dentro in barca. Io, per me, come dire, ho detto tutto, faccio un po' di pubblicità, nel senso che uscirà questo libro che si intitolerà Lungo il Po, uscirà per Guido Tommasi Editore a febbraio del prossimo anno, e spero, insomma, di venire qui a raccontarvelo di nuovo.